Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La frase "si vive una volta sola" è una delle frasi che mi sono meno gradite, perché una delle cose negative della vita è proprio che ce n'è una sola. E quindi io apprezzo moltissimo le persone che di vite cercano di viverne più di una, quelle che fanno tanti mestieri e che in qualche modo si annoiano di fronte alla difficoltà di vivere una sola esistenza. E qui parliamo di una persona che di vite ne ha vissute almeno tre. Una da star del cinema, una da giocatore professionista di bridge e una da seduttore e playboy. Il personaggio di oggi si chiama all'anagrafe Michael o Michel Dimitri Shalboub, ma noi lo conosciamo come Omar Sharif e ce lo ricordiamo tutti per due grandi interpretazioni. Una in Lawrence d'Arabia, è il primo film in inglese che gli fruttò subito una nomination all'Oscar, e una per il Dottor Zivago, entrambi firmati da David Lean. Gli occhi vivi e brillanti, i baffoni, e Omar Sharif ha avuto una lunghissima carriera costellata da oltre 100 film, tra passioni, debiti, curiosità, voglia di vivere. Ha amato sempre l'Italia, perché immagino l'abbia vista come una terra, come dire, affine al suo modo di vita, soprattutto nelle regioni del sud. Parlava molto degli spaghetti, parlava molto di un cantautore, Domenico Modugno, tanto che ha imparato a cantare una sua canzone quando era piccolo insieme a suo padre. Eccolo. Beh, lui di voli ne ha fatti per tutta la sua vita, una vita che è cominciata a Alessandria d'Egitto il 10 aprile 1932. I suoi genitori sono libanesi cattolici intransigenti, suo nome di battesimo è Michael Dimitri, la sua è una famiglia benestante che gli permette di studiare da religiosi francesi, poi quando vanno al Cairo di diplomarsi all'inglese Victoria College, dove studia in uniforme e ha a disposizione 5 campi da calcio dove gioca terzino destro. Ama tutte le lingue, studia il francese, l'inglese, è un perfezionista, un ambizioso, una persona intuitiva, e quindi la sua è una giovinezza dorata, diciamo pure facile. È un ragazzo intelligente, l'abbiamo detto, però un po' svogliato, perché sogna di diventare attore, pensando a torto che anche l'attore sia un lavoro facile. Però intanto emerge in matematica, dove la sua intuizione lo aiuta, dove accresce la sua passione per i giochi, per l'enigmistica, la logica. Qui c'è già, come dire, il germe che poi lo porterà verso il gioco di carte e più incline alla matematica, cioè al bridge. Così, mentre dà una mano al padre con il commercio di legname pregiato, si laurea in matematica e fisica all'Università del Cairo. La sua ultima casa è in pieno centro, sta tra l'ambasciata d'Inghilterra e quella degli Stati Uniti, con una splendida vista sulla valle del Nilo, saloni fastosi arredati con gusto dalla madre. I got extraordinary luck in my life. Sono stato straordinariamente fortunato nella mia vita, veramente. Sono nato in una famiglia benestante e mia madre per me c'era sempre, poiché al tempo le donne non lavoravano. E così lei era lì per me, sempre. Mia madre era un po' bizzarra, non molto colta. Fui messo in una scuola francese perché mia madre non parlava inglese e lei era cresciuta in scuole francesi. Un bel giorno, quando avevo 11 anni, lei scoprì che ero grasso e impazzì. Diceva: "Mio figlio è brutto, è grasso". Allora pensò: qual è la peggiore cucina del mondo? Quella inglese. Allora mi mandò in una scuola inglese dove diventai molto magro. Non c'era paragone con quello che mangiavo a casa. Comunque, nella mia nuova scuola c'era un teatro e a 13 anni mi diedero la mia prima parte e mi piacque molto. ed è solo quando ha 21 anni che incontra nella sua strada il cinema, che da sempre è il suo sogno. Nel 1953 lo nota un giovane regista che si chiama Youssef Chahine, anche lui cristiano libanese residente a Alessandria d'Egitto. Fa un film che si chiama Lotta sul fiume, che in inglese si chiama The Blazing Sun, e lo sceglie al fianco di una diva dell'epoca della zona che si chiamava Faten Hamama, considerata la più grande star femminile del Medio Oriente. Così scopre di avere un talento inaspettato per la recitazione. Poi sul set scopre l'amore, quello per l'attrice, per lei, per Faten. La sposerà 2 anni più tardi, ma il giovane attore capisce subito che la recitazione è un lavoro di grande attesa, come si legge nel suo libro La mia vita con il Brigi, edito da Mursia. Cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna riempire il tempo mentre qualcuno sta preparando le luci, sta ripreparando il set, e quindi in quel momento lui scopre il Brigi, il gioco per lui più bello del mondo. Girare un film è la cosa più noiosa del mondo. Non c'è nulla di più favorevole alla nascita di una passione di questo miscuglio di solitudine tediosa inframmezzato da qualche momento raro e lungamente atteso. Mi vedo ancora in quella piccola libreria nel centro di Alessandria, mentre scorrevo con lo sguardo le scaffalature alla ricerca di libri noiosi, ma non troppo. Per caso, i miei occhi si posarono sul Blue Book di Goren in edizione francese. A quel tempo ignoravo tutto del bridge. E l'indomani, comodamente seduto e con spirito del tutto indifferente, aprii questo libro in attesa che il regista, che organizzava il suo piano di lavorazione, avesse bisogno di me. È quasi sempre in uno stato d'animo di assoluta indifferenza che nascono le grandi passioni, prendono corpo e si sviluppano. Intravedevo allora, come per folgorazione, che quando il bridge è giocato alla perfezione, mette l'animo nella stessa disposizione di quando si può gioire della presenza di chi si ama. In altri termini, il bridge dà, apparentemente, la felicità più viva che possa esistere sulla Terra. La protagonista del film, Faten Hamama, è bellissima e rimarrà una leggenda del cinema per La Valle del Nilo e per un bacio che viene fatto tra i due sul set e che fa nascere un amore vero e appassionato, un amore che durerà per anni. Lui però è cristiano, lei è musulmana, e per sposarla, per ottenere il consenso dei genitori della sposa, si converte all'Islam. Il suo nome è libanese, Michel Dimitri Shalboub, è impronunciabile. Allora lui sceglie un nuovo nome più evocativo, facile per il mercato che è alla ricerca di volti nuovi. Sceglie un nome che lo accompagnerà per tutta la vita: Omar El Sharif. A poco più di 20 anni, Omar Sharif è un uomo a cavallo tra due mondi, quello occidentale e quello orientale, e tra due religioni, quella cristiana della madre libanese e quella musulmana, abbracciata per sposare la moglie. Dal matrimonio con la signora del cinema arabo nel 1957 nasce un figlio, Tarek El Sharif, che poi interpreterà il piccolo Yuri Zivago nel film Il Dottor Zivago. E i due continueranno a lavorare assieme con successo, ma il matrimonio finisce nel 1974, dopo la separazione del 1966. E lui non si risposerà mai più, nonostante le numerose storie. Diventerà un sex symbol, rimarrà sempre scapolo, non si è mai sposato, e nel 2007, durante un'intervista con un giornalista di Al Jazeera, ha detto questo: sono sempre stato estremamente fortunato nella mia vita, e probabilmente avrei potuto essere più felice stando in Egitto, dove ho avuto una bella vita familiare ed ero già una star. Beh, le cose invece sono andate molto diversamente per lui, con alti e bassi, però è evidente intanto che ci sono uomini per i quali una donna sola non basta, e poi perché lui doveva prendere il volo ed andare in America. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato il nostro protagonista di oggi, Omar Sharif, in Egitto, dove per ora sta girando film a basso costo, insomma sta preparando il grande salto. Intanto però, quando è sera, gioca a bridge in albergo, scende nella hall e incontra altri professionisti del bridge. Diventa un giocatore di medio livello, più sicuro e molto appassionato. Avevo già acquisito le mie abitudini a bridge, abitudini che da allora non sono cambiate. concentrato sulle carte, fumo moltissimo e, come a un automa, con mano brancolante, cerco il pacchetto alla mia destra, estraggo la sigaretta, la porto alla bocca e la accendo. Mentre compio questa operazione, la mia mente non lascia neppure per un istante il gioco, il tavolo e la successione delle prese. Eh sì, perché a Brice bisogna contare, pensare, fare ipotesi, è un gioco matematico molto affascinante. Comunque, arriva il giorno in cui lui decide di presentarsi al regista David Lean, che sta facendo i provini per un film epico, Lawrence d'Arabia, siamo nel 61. E lui è interessante perché parla l'inglese e il francese senza imbarazzo, si comporta come un occidentale, però ha in questi occhi il furore del Mediterraneo, quindi un'anima completamente diversa, e vince perché il regista gli affida il ruolo dello sceriffo Ali. Con lui sul set ci saranno Anthony Quinn, Peter O'Toole, di cui Omar dirà O'Toole è la cosa più simile a una bistecca che abbia mai incontrato, quindi diciamo non erano proprio amici intimi. Comunque, chi di noi non ricorda la scena dell'incontro nel deserto tra l'eroe senza macchia Omar Sharif in groppa a un cammello e il suo amico Peter O'Toole? Lo stimo uno degli uomini più grandi fra quelli vissuti nel nostro tempo. Non vedremo mai più nessuno come lui. Il suo nome rivivrà nella storia, rivivrà negli annali della guerra, rivivrà nelle leggende dell'Arabia. Chi sarà? Beto! Tafas! Qual è il tuo nome? Il mio nome lo dico ai miei amici. E io non ho amici fra gli assassini. Beh, comunque, con il colossal Lawrence d'Arabia, Omar Sharif entra nella leggenda. È già al primo film girato fuori dall'Egitto. La sua interpretazione gli darà la nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista e gli aprirà le porte di Hollywood con un contratto con la Columbia Studios. Siamo nel 63. Così il bridge viene messo da parte perché lui deve presenziare alle feste, insomma deve farsi conoscere, e nel 63, mentre è a girare a Parigi un film con Gregory Peck e Anthony Quinn, entra comunque in un club e ricomincia a giocare a soldi e a partecipare a tornei ufficiali. Fu in quel periodo che girai La caduta dell'impero romano con Sophia Loren, una Rolls Royce gialla con Ingrid Bergman, Le favolose avventure di Marco Polo, Alma Malik, Gengis Khan con François d'Orléac. Nei tornei che facevo allora non brillavo certo di fulgore internazionale. A livello di alta competizione, il bridge, come qualsiasi altro sport, esige un allenamento regolare, una buona forma fisica e un partner abituale, di cui si sappia apprezzare fin nei minimi dettagli il modo di giocare. Giocai tuttavia nella squadra egiziana durante le seconde Olimpiadi che riunirono a New York nel 1964, 29 nazioni provenienti da tutto il mondo. Però intanto arriva il giorno in cui David Lean, il regista, si sta domandando chi potrebbe interpretare il protagonista dell'adattamento cinematografico del romanzo, del grande romanzo di Pasternak, Dottor Zivago. Now the $64,000 question, of course. E la domanda da $64,000, ovviamente, era: chi può interpretare Zivago? Zivago è un ruolo davvero passivo, è un poeta. He's a poet. Bene, per mettere i panni del poeta Zivago il regista vuole proprio lui, vuole Omar Sharif, e questa volta rischia parecchio perché intanto lo traveste da russo per recitare, è un salto di qualità notevole, siamo nel 65. Sotto una commovente colonna sonora di Maurice Jarre scorrono 200 minuti di film, 200 minuti di amori, steppe, guerre, desolazione, e tra la musica è famosissimo il tema di Lara, per esempio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo che, come abbiamo detto all'inizio, ha vissuto tante vite. Egiziano di nascita, libanese di origine, è uno dei grandi protagonisti del cinema degli anni 60 e il film Lawrence d'Arabia lo consacra. Ha uno sguardo intenso, questo fascino esotico, insomma io non sono pratico di uomini, però intuisco che sia uno che funzionava molto, grande donnaiolo, gran giocatore di bridge, vive solo in alberghi di lusso, peraltro parla arabo, francese, inglese, italiano, greco e turco. Lo abbiamo lasciato sul set del Dottor Zivago nel 65. È egiziano, però è bravo e convincente anche nella parte del Dottor Yuri Zivago, medico e poeta coinvolto nella rivoluzione russa. Al suo fianco ci sono due attrici, Julie Christie e Geraldine Chaplin, e il film entra tra i 100 migliori film della storia di Hollywood. Geraldine Chaplin as Tonya, tender child, delicate woman, loving wife of Zhivago. Julie Christie as Lara, the violent, sensual, sensitive girl. Infatti lui parla anche italiano, e che cosa dice di questo film durante un'intervista a Carlo Conti su Rai 1? Io ho fatto questa parte, però, cioè non sapevo che potevo fare questa parte, perché io ero un egiziano. Prima di questo avevo fatto Lawrence in Arabia, certo. Ero tutto nero. Arrivo, mi fanno tutto biondo, cioè non biondo, insomma, però castagno, ecco. E allora mi ha detto il regista, tu devi fare il poeta. E il poeta in una pellicola non può fare niente, deve solo guardare la gente. Beh certo, dire ero tutto nero a Carlo Conti fa un po' sorridere. Comunque questa sua interpretazione del Dottor Zivago gli frutterà il Golden Globe nel 66 nella categoria miglior attore in un film drammatico. For the best actor in a drama, the nominees are Rex Harrison for The Agony and the Ecstasy, Sidney Poitier for A Patch of Blue, Omar Sharif for Dr. Zhivago, Rod Steiger for The Pawnbroker, and Oscar Werner for Ship of Fools. May I have the envelope? The winner is Omar Sharif. Congratulations. Thank you very much. Grazie mille. Vorrei dire che ci sono solamente due corrispondenti esteri dal Medio Oriente, nel caso ve lo chiedeste. Grazie veramente. Grazie. Thank you very much indeed. Thank you. Sì, è pieno di giornalisti, solo due dal Medio Oriente, segnala lui. Però intanto il suo successo è planetario, è ricco, famoso, ha la gloria, è anche molto solo, perde la sua terra, la sua famiglia, però lui sceglie il piacere della vita. Torna in Europa per C'era una volta di Francesco Rosi e conferma la sua alta flessibilità, perché veste i panni di un ufficiale nazista tedesco per La notte dei generali di Anatoly Litvak, sempre in coppia col suo amico O'Toole, e canta con Barbara Streisand in Funny Girl nel 68. L'anno prima c'è stata La guerra dei sei giorni. In questa pellicola il musulmano Omar interpreta un giocatore ebreo e quindi diventa vittima dei pregiudizi prima della comunità ebraica, poi dei suoi stessi compatrioti che vorrebbero gli venisse revocata la cittadinanza per una scena d'amore con l'attrice di cui lui invece si innamora. Dove abito io, Henry Street? Se due persone, insomma, si vogliono bene. No, lascia andare. Beh, che cosa fanno questi due quando si vogliono bene? Oh... Uno dei due dice, perché non ci sposiamo? Ma sul serio? E certe volte lo dice perfino l'uomo. Davvero? Senti, fa come se non avessi detto niente, insomma, cancellato. Va bene, anche dalle mie parti si fa così. Allora smettila di divertirti e dillo, in modo che io non possa dirti che ci devo pensare, che devo dirlo alla mamma, che non ti voglio magari. Io ho un'idea migliore, bevi un sorso. Anche il sorso. Senti, che ne diresti di sposarci? Quando? Quando? Qui stasera, adesso il comandante sembra anche un rapino. Eh sì, il film è galeotto, perché dai baci sul set si passa ai baci nella vita. Vive una relazione con Barbara Streisand. Tra l'altro, per il film di cui parlavamo, vincerà l'Oscar, che Omar invece non otterrà mai. Gli anni che seguono lo vedono sempre in primo piano, fa tanti altri film, e l'abbiamo detto, intanto impara l'italiano, il greco, il turco, teenager e donne cadono ai suoi piedi, e negli alberghi dove soggiorna gli capita di tutto, come l'aneddoto che racconta nel suo libro La mia vita con il bridge, ma non solo con il bridge, sono le 4 del mattino e lui è appena rientrato. Improvvisamente sentii bussare alla porta. Vado ad aprire e mi trovo faccia a faccia con una donna ubriaca fradicia. Senza guardarmi, dice con tono imperioso: «Voglio fare l'amore con lei. Signora, la prego, è molto tardi». Con gesto galante ma deciso, la prendo per un braccio per ricondurla. Ma essa si divincola, apre la borsa ed estrae una piccola rivoltella. Me la punta addosso e con un tono molto meno femminile mi dice: «Si spogli». Non riuscivo che a balbettare: «Via, signora, si spogli». Anch'essa maldestramente si spoglia, sempre tenendo il revolver puntato su di me. Si sdraia sul letto già preparato per accogliere il mio sonno solitario e ristoratore e da lì mi ordina: «Venga, facciamo l'amore». Ero in piedi davanti a lei, nudo, con le ginocchia tremanti. «Lo vede bene anche lei, signora, che non posso, è assolutamente impossibile». Evidentemente se ne rendeva conto. Allora mi dice: «Si avvicini». Faccio due passi verso di lei. Per il momento non vedevo altra soluzione. Mi afferra e con una mano, quella che non impugnava il revolver, cerca di attirarmi a sé. Fatica sprecata. Dopo qualche istante, rinunciando al suo proposito, essa mormora: «You are a fraud», che significa: «Lei è un bluffeur, un imbroglione, un bidone. La sua fama è usurpata, eccetera, eccetera». Evidentemente, agli occhi di questa donna ubriaca fradicia, Omar Sharif, in questo stato di insigne debolezza, non poteva che essere un fraud. Beh, questa è bella, questa a me manca. E quindi, così insomma, un punto 1-0 per Omar Sharif, che intanto fa una vita particolare, diciamo di solitudine, almeno formale. Vive tra alberghi, cene, nessuno che ti mette in discussione, non ha neanche una casa, perché vive solo nei grandi alberghi. I'm unique in my profession. Io sono unico nella mia professione. Ogni altro attore ha un paese di base dove lavora e vive. Da lì, talvolta, si muove per lavorare in location estere, ma ha una casa. Io no. Ogni film che faccio è in un paese diverso. Se giro nella Francia del Sud, devo trasferirmi nella Francia del Sud, così come in America, in India, in Jugoslavia. In Russia ho girato due film. Mi piacerebbe avere una casa di riferimento, una vera base, ma non un appartamento. Perché quando invecchi e vivi da solo, io non ho una compagna, vivere in appartamento non è divertente. Mi potrebbe sempre capitare qualcosa e temo sempre di essere solo e di non riuscire a chiamare aiuto in caso di urgenze. Così, vivendo in un hotel, almeno il concierge c'è sempre. So the concierge, you know, you just call the concierge. Beh, ci sono dei vantaggi a vivere in albergo. Intanto non c'hai i Bersani che ti insegue con la cartella dell'IMU sulla prima casa. E poi c'è anche la concierge. Ma lui non si dedica solo al cinema e alle belle donne. Gli piacciono i cavalli da corsa puro sangue. Entra nella lista dei top players del gioco. Pubblica il suo primo manuale di bridge. Arrivano intanto nuove star del cinema come Redford, Jack Nicholson. Lui si allontana dai set perché l'attrazione per il tavolo verde è irresistibile e lui ci sperpera anche delle fortune. Mi sono appassionato al gioco per noia. Ero un uomo solitario. Vivevo in hotel sempre con la valigia in mano. E quando arrivi in un posto nuovo e non conosci nessuno, se sei famoso, l'unico posto dove puoi cenare da solo è il casinò. Vai al casinò e puoi cenare da solo, senza che nessuno ti infastidisca. E poi giochi per avere un po' di emozione, per combattere la noia di essere solo, per sentire qualcosa. È tutto qui. That's all. E così arriva la flessione inevitabile. A 71 anni, tra l'altro, viene condannato a un mese di prigione per avere picchiato un poliziotto in un casinò di Parigi. Questo scandalo lo porta sulle pagine dei rotocalchi con il suo lato meno glamour, la febbre per il tavolo verde, si dice che abbia fatto dei film per pagare i debiti di gioco. Insomma, capisce che deve riprendersi la sua dignità, soprattutto di fronte ai nipoti. Nel 2003 è l'anno in cui ritrova un film alla sua altezza. Il mondo ne rimane incantato perché interpreta un negoziante musulmano anziano nel film francese Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, un film che vince il Leone d'Oro. Anzi, lui vince il Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Sai, ho lavorato molto per tutta la vita, però con i miei tempi, lentamente. Non ho mai cercato di fare i soldi, né di avere la fila di clienti, no. La lentezza è questo il segreto della felicità. Beh, la pellicola è commovente e lui tra l'altro ci ritrova dentro le sue origini medio orientali, perché interpreta un anziano commerciante sufi che scopre la sua vocazione paterna incontrando il giovane ebreo Momo Schmidt. È un film che manda un messaggio che è molto sentito anche dallo stesso attore. Pensai che in quanto attore arabo di successo e personaggio amato dal pubblico, io fossi particolarmente adatto a fare una dichiarazione sulle relazioni tra arabi ed ebrei, sulla violenza e su tutto ciò che stava succedendo, per dire che invece non è impossibile vivere insieme in pace e amarsi. Quando ha 72 anni e gli viene chiesto che cosa è importante per te ora, e lui risponde subito senza incertezze: My family. La mia famiglia è la cosa più importante per me. In passato non le ho dedicato tempo a sufficienza poiché lavoravo molto. Ora non lavoro mai lontano dalla mia famiglia. Adesso è la mia priorità. Cerco di trascorrere più tempo possibile con i miei familiari e se posso fare qualcosa di buono, dedico loro tutta la mia attenzione. Beh, bello, lo fanno in tanti. Portarsi a letto le donne di mezzo mondo e poi nel finale della vita dire che la famiglia è la roba più importante. Quando ti sei divertito, dopo allora la famiglia la scopri. Comunque lui lavora poco ormai perché comincia a essere âgé. Nel 2005 interpreta il ruolo di San Pietro in una serie TV italiana. Per questo alcuni dicono che viene oggetto di una fatwa, cioè di quelle maledizioni, condanne a morte che partono dal mondo islamico integralista. Insomma, decide di tornare in Egitto per sempre. Nel 2006 smette anche di giocare a bridge, si dedica appunto alla famiglia, ai nipoti, soffre di cuore e ahimè si ammala del morbo di Alzheimer. E nel 2015, il 10 luglio, muore in un ospedale al Cairo per un attacco di cuore. Sei mesi dopo scompare anche la sua ex moglie. I funerali si tengono nella moschea Hussein Tantawi, la moschea della capitale. Sono stati ripresi da reporter, da fotografi, e poi è stato sepolto al cimitero cittadino di Sayeda Nafisa. Questa è una profonda riflessione sul suo rapporto col tempo e la memoria, che suona un po' come il suo testamento spirituale. When you're old, quando sei vecchio, non dovresti pensare al futuro e nemmeno al passato. Dovresti concentrarti sul momento che stai vivendo, perché non sai quanto ti rimane e non puoi perdere tempo coi ricordi. Io non ricordo nulla. Non voglio ricordare. Sì, ho dei ricordi di mia madre, di mio padre, delle cose che facevano, perché non posso farne a meno. Ma per il resto, quale film o quale scena ho fatto, non ha alcun senso per me. Tutti i film in cui lavoro non hanno senso per me. Sono scomparsi dalla mia mente. Io penso solo a ciò che sto facendo ora. Ci sono persone che sono partite da una parte del mondo, lo hanno attraversato, hanno ottenuto il successo magari anche con delle vite difficili da vivere, perché la vita è difficile anche quando sai dare il tuo colpo d'ala, anche quando sai volare in alto, anche quando fai cose che hanno lasciato un segno, e ciascuno di noi può farcela, lasciare un segno. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il riflettore o il mio microfono, scrivete al falcogabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite a cercarmi sui miei social o sui nostri social. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.